www.radio3pod.rai.it. Sì, buongiorno. Ieri ero in macchina e sono entrata in un parcheggio. Cioè, pensavo che fosse un parcheggio e... Era la metro? Sì. Succede. Per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich, che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. It is later than you. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli non si capisce se la primavera stia iniziando oppure finendo, Kappa e Drago discutono di semiotica. Cosa? La fenomenologia di Costantino del Grande Fratello. Ma cosa dici? Sì, ci vorrebbe un Umberto Eco che la scrivesse. Ma no, ma scusa, ma Costantino non è uno del Grande Fratello. Appunto. Cosa più? Costantino del Grande Fratello è come una chimera, no? Una creatura di fantasia come il centauro. Però invece di essere metà cavallo e metà essere umano, è metà tronista e metà concorrente del GF. Ho capito. Il GF, tu hai mai detto GF per no, dire Grande no. Fratello? I grandi esperti lo chiamano il GF. Ecco, una cosa mai vista, capito? Costantino del Grande Fratello. Una cosa mai vista ma assolutamente plausibile. Scriverne una fenomenologia come fece Umberto Eco per Mike Buongiorno è assolutamente necessario il giorno d'oggi. E tu cosa scriveresti? Scriverei che il pollo medio riuscito della fabbrica di polli è Costantino del Grande Fratello, icona immaginaria del pop trash, e poi seguirebbe una biografia, anche quella immaginaria, ma ricca di dettagli. Io ad esempio me lo immagino figlio di tabaccai nella periferia di una grande città. Ehi, Costantino, fai bene ad aiutare tuo padre qui in tabaccheria, perché almeno dai una mano e ti guadagni qualche soldo. Ma perché ti sembra uno che vende sigarette? Mi stai vendendo le sigarette, quindi... Ti sembra uno che vende sigarette? Ma sei scemo o cosa? No, ti sembra uno che vende sigarette? Vabbè, va, ma il resto me lo dai o te lo freghi? Perché ti sembra uno che ti dà il resto? Oh, oh, oh, oh, la fabbrica di polli, polli, polli. Allora, Pollo, sei pronto? Beh, pronto, un attimo, con te come insegnante non è che possa essere tanto pronto, No, questo è tipico degli studenti somari, dar colpa agli insegnanti, forza. Piano con le parole, Dai, somaro è il minimo che ti posso dire. Pollo, tu non ti applichi, sei presuntuoso, non hai fiducia in me, forza. Se per quello io non ho fiducia di nessuno, Perché a me soltanto sentire la parola fiducia mi mette un po' in allarme. E fai male perché io sono un insegnante di musica referenziato. Sì? E dove avresti insegnato? Ho insegnato in Svizzera. Generazioni di bambini svizzeri cantano e suonano grazie a me. Quindi... i bambini svizzeri? Svizzeri. Perché questa ti sembra una buona referenza, Beh, certo. Sì, perché tra una sciata e l'altra, tra una grolla e l'altra, tra una fonduta e l'altra, loro trovano il tempo anche per preparare lo iode, Vero? Forza, basta chiacchiere. Allora, Pollo, siamo ancora fermi a quel mazzolino di fiori, io non ne posso già più, quindi... L'hai scelta tu, quel mazzolino di fiori. E adesso capisco anche perché. Perché la Svizzera questa qui andava alla grande, Ma dai, vuoi qualcosa di più serio tu magari? Sì. Guarda che a me piacciono i virtuosi della voce, cioè tipo Demetrio Stratos, Tim Buckley, Robert Plant, mica quel mazzolino di fiori. E invece invece ecco qua gli spartiti della famosa opera Onan. Un'opera contemporanea, Pollo. Un'opera mai rappresentata, composta da un oscuro maestro di violino ungherese. Questo non ti eccita già un po'? Onan, sai chi era Onan, no? Colui che nella Bibbia sprecava tutto il seme. Bravo. Quindi tu sarai Onan. E queste sono le parti da cantare. Ecco qua, allora, forza. Ma che sbattimento, Io non so mica leggere le note. Oh, signore. Ma perché io poi, la parte dell'onanista, mica la voglio fare. Infatti non sei un onanista, sei l'archetipo di tutti gli onanisti, capito? Sei l'onanista numero zero, l'ur-onanista, come no? Sì? No, io non voglio mica, eh? E poi com'è che si canta sta roba, scusa? Dai, leggili, guarda, c'è scritto, forza. Adesso, onanismo, così? Un po' più basso. Adesso, ti spiego. Ecco, bravo, forza, più basso, forza. Adesso, tastiera. Bello, bello, molto meglio del mazzolino di fiori, eh? Tu ce l'hai nel sangue la parte dell'onanista. Tu sei l'onanista numero zero, Pollo. Vabbè, allora adesso basta. Adesso rock and roll. Rebel, rebel, give the sight. No, ma cosa c'entra? Rebel, rebel, give the night. Ma questo non è Onan. E com'è? È David Bowie. Vabbè, Onan, no? No, perché no, Bowie prima era Onan, eh? E poi ha sposato Eman. E però poi ha infartato. E quindi basta Onan, eh? E basta anche Eman. Il giorno in cui mi scarico gratuite dalla rete le scarpe da ginnastica che tanto a me mi piacciono, sarò contento anch'io, amico, che ti scarichi gratuita dalla rete la mia musica fantastica, fin tanto che lo scambio equo non avviene. Io sono parte lesa di questa innovazione. Tu ascolti la mia musica e io cammino scalzo. Saluta Gates e Jobs e digli che li ammazzo. Un altro fenomeno da studiare, K, sarebbero le cover band. Oh, per carità, no. Già c'è il pollo in sbattimento che vuol fare le cover di Bowie, lui da solo. Vabbè, no, ma no. Scusa, K, come dice il famoso filosofo Sergio Sgrilli? Drago! Avevamo detto basta bestemmie. Hai ragione, K, mi è scappato. Allora, Sergio Sgrilli, filosofo. Come dice Sergio Sgrilli, le cover band sono la consacrazione dell'emulazione, capito? Cioè, lui non dice proprio così, però tradotto in italiano alto diventa questo, no? Quindi la consacrazione dell'emulazione con conseguente sminuizione dell'invenzione, della creazione. Meno male che non ho un difetto di pronuncia, sennò sta frase. Comunque, Drago, non sono d'accordo, perché se il rock è destinato ad essere la musica classica del futuro, è giusto che ci siano interpreti del repertorio di gruppi che non esistono più. È come se trovassi assurdo che ci siano compagnie che portano in giro l'Aida solo perché Verdi è morto. Va bene, ma quando trovi anche la cover band degli Arctic Monkeys, che hanno appena esordito, il fenomeno diventa preoccupante. Vabbè, è la velocità. È quello che ci frega, Drago. È come la nostalgia per le cose successe da poco. C'è tutta un'industria della nostalgia recente, lo sai, no? Il revival degli anni 90, per esempio. È solo una questione di mesi. Anzi, è strano che non sia già in pieno sviluppo. Nostalgia per gli Smashing Pumpkins, per Alanis Morissette. Certo. No! Ma come no? No, ma vedrai. No. Ma allora cosa succede ai nostalgici degli anni 70, tipo il pollo in sbattimento? Quelli sono proprio destinati all'estinzione, se siamo già nostalgici degli anni 90. Ma sarebbe l'estinzione, eh? Estinzione. Sì, no, più passano gli anni, più i tuoi fantastici 70s diventano parte della storia, come gli anni 30 e 40. Sì. E i giovani li vedono sempre di più come un momento indistinto del passato, una cosa vecchia. È così che vanno le cose, Pollo. Tu sei un reduce, sei vecchio. Ma se gli anni 70 sono stati gli anni 70, un motivo ci sarà postato, no? Venivano dopo gli 60. Gli anni di piombo, mica gli anni di plastica, o gli anni virtuali. Il piombo è piombo, E fa venire anche saturnismo, Oltre tra l'altro a bucarti le parti vitali. Ho capito, Polo, ma a te piacciono le cover band dei gruppi di quegli anni? Tipo quei francesi uguali ai Genesis. No, i Marillion erano inglesi. Vabbè, era un altro. Ma comunque cosa c'entrano i Marillion? I Marillion non erano una cover band, Era una band imitativa. Bello, però allora si potrebbe pensare a una cover band dei Marillion. E chi è che fa Fish? Io sono troppo basso. No, lo faccio io, Fish. Io sono alto 2 metri. Io voglio fare Fish. No, faccio io. Che ti sembro uno che fa fare Fish dei Marillion a un altro? Che ti sembro uno che sa chi sono i Marillion? Che cosa succederà adesso? La cover band dei Marillion prenderà davvero vita? E se sì, Peter Gabriel si rivolterà nel lettino abbronzante della sua tenuta di Bath? Non restate basiti in attesa della risposta a questi pregnanti interrogativi, ma preparatevi a sintonizzarvi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo indistinguibile allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce,